Ah, ma la storia l'è mea finita, anzi l'è proprio appena iniziata, perché adesso che in giro il Tony con quel so catanai de una spada. La fa pirlà che bisogna vedel, el par quasi la fin del mondo, el riesa a frantumanca i nigui, a scepa de mezzi unt. In ogni sitin del Tony el passa, capita sempre una quai reguai. E tu ci stori che parlen de lui, se ries neanche più a quintai. Gen venu den sit lontan, ier imbarca la soglia de zang, tu ci caval con ti armi in man, per rapì un po' de tusan. Solta feltoni, ghe disen denan, ma lui se incazza al fafeo che fiam, pareva la noce dell'ultim dell'an, pareva la festa de San Juan. Pensaven che l'era mor de fam, ma i accupaggio tuis come can. El bolge e roccia, con la vanga in man, ansuterà gent per un an. L'ansera in tuci paese, che bisognava mea fa dispres, perché trop cold, vestì de metal, l'era in gir col so caval. A chi che faceva gira i bal, ghe tagliava via il co e ghe la dava in man de vardal. El dormiva su a bunzanic, senza vestì, su ripian de urtic, per i nemisa l'era un castig, gli attrava la tuc come pel de fig. Aghera un serpent che partiva de pela, el ruava fin su la casgnola. La gente era tutta terrorizzata, se invia il Tony con scià la sua spada. E de dopo, in mezzo alla strada, ah, aghera le nurbisò la scusciata. Una noce invece, su al prà della taca, gheran striozza caval de navaca. El fa una magia, el ghe tira la cua, el trasforma la bestia in una scua, el gula de scià, el gula de là, se capis più cu se cazzo il fa. El lancia saet, el fa stremì gent, el par proprio fede sentiment. Tu che vusaven, cara Madonna, ghe scia il diavolo in persona. Rua trop colt, e ven du, e i treven el mago, con la scua in del cu.